per paura che quel ghiaccio si sciogliesse in parole. Quando ero lampo in un solo respiro, vissi una vita intera, ma per voi neanche un secondo. Quando ero sole annuvolivo per la vergogna d'apparir sereno. Quando ero grandine e picchiavo perché il mio pianto fosse udito dal cielo. Vestirmi di stelle, avvolgere silenzi, aprendo il mio scialle, echi di luna, ascoltar nell'oblio, dove non osa la mano di Dio, di Dio. Echi di luna, ascoltar nell'oblio, dove non osa la mano di Dio, di Dio, di Dio, di Dio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Parlavamo del grande lavoro che ha fatto Marco in questo pezzo. Sì, è un lavoro complesso. Tu dicevi a microfono spento che voleva, non voleva ispirarsi, sentiva l'odore, tra virgolette, musicale di Daniel Lanois. Daniel Lanois sicuramente è uno insieme a Ray Cooder, ecco, Ray Cooder, quello che abbiamo citato prima, è uno dei punti di riferimento, cioè, di Marco proprio, ed è più o meno quello che gli chiedevo poi di tirar fuori come suono e come idea su questo brano. Volevo qualcosa di sospeso, di aleatorio, capito? E lui è influenzato da questi musicisti, ma anche dai suoni del sud, degli Stati Uniti, del Texas. È riuscito a trovare proprio un giusto equilibrio tra tutte queste componenti. Secondo me ha fatto un lavoro che era giusto appunto far sentire agli ascoltatori direttamente come l'ha suonato, perché proprio secondo me è il modo migliore per ringraziare un musicista per quello che ha fatto, perché veramente ha impreziosito questa canzone, gli ha dato probabilmente motivo di esistere, se vuoi, su, certo, questo disco. Certo, sì, giustamente Marco, cioè Paolo, mentre il pezzo andava, mi ha fatto sentire come lo esegue dal vivo. Sì. Poi sentire un secondo, un momento, cioè l'esecuzione è decisamente diversa, chiaramente, perché dal vivo lo suono prende percuotendo le corde, la cassa, in questo modo. Quando ero pioggia, perdonavo anche il cielo. eccetera, eccetera. Certo, qui lo percuoti le corde. Esatto. Qui Marco invece non ha percosso le corde, ha dato una colorazione un po' strana, un po' diversa. Esatto, sotto c'è comunque questa chitarra percossa, sì, e anche una chitarra elettrica che fa più o meno questa cosa, però avevo bisogno proprio di qualcosa di sospeso, cioè di dare proprio qualcosa di magico. Ha creato un'atmosfera, possiamo dire. Sì, assolutamente. E quindi un grande lavoro, chiaramente. Sì. E, no, la cosa che mi piace dire di questo pezzo è che appunto quando parlavamo prima della scelta delle canzoni che sono andate a comporre questo disco, questa canzone, Echi di Luna, inizialmente non volevo inserirla. Non volevo inserirli. Perché infatti nella pre-produzione, chiamiamola, nei provini, non avevo iniziato a lavorare a questo brano, perché l'avevo scritto un po' di anni fa e non la trovavo, insomma, pertinente per questo disco. In realtà però la suonavo dal vivo. E succedeva però che le persone che venivano a sentirmi dal vivo, alla fine però mi facevano i complimenti per questa canzone e mi dicevano che li aveva emozionati, così questa cosa si ripeteva e a me faceva molto piacere, ovviamente, e pensavo appunto che uno dei vantaggi, come ti parlavo prima, di quella che possiamo definire la gavetta, quello magari di non essere conosciuti, uno dei vantaggi è proprio questo confronto comunque diretto, si va nel locale e si suonano le canzoni, no? E allora lì dici, vedi subito quello che può arrivare e quello che invece non arriva. Mi è capitato anche di andare all'estero, tra l'altro, dove non arriva magari neanche il testo perché non capiscono magari la lingua, anzi, senza il magari non capiscono la musica lingua, sì, però gli arriva magari l'emozione, l'istintività. Esatto. E quindi dicevo, ma se questo brano comunque insomma a più persone ha detto qualcosa, sto sbagliando io a non considerarlo un brano importante. E infatti devo dire che anche una volta uscito il disco è uno dei brani che più mi richiedono, chiaramente. Quindi hai parlato del live, tu fai spesso concerti dal vivo sia in Italia sia da queste parti, quindi anche passi le frontiere e vai negli Stati Uniti. Sei stato anche negli Stati Uniti? Sì, sono stato negli Stati Uniti grazie a degli amici musicisti che ho conosciuto qua in Italia, con cui c'è un rapporto molto bello, in particolare Eileen Rose. Grazie a lei sono stato negli Stati Uniti qualche anno fa insieme al mio amico Andrea Parodi, di cui citiamola, visto l'associazione con cui infatti prima non l'abbiamo citato tra quelli che ha suonato, perché ha cantato. Ho capito. Ma assolutamente, con cui ho questa associazione, si chiama Pomodori Music, insieme anche a Max La Rocca, che è venuto qualche mese fa, e diciamo, loro più volte ancora di me sono stati negli Stati Uniti. Io ci sono andato, ho avuto la possibilità di suonare a New York. E come si suona con i musicisti americani? Tu hai parlato sempre a microfoni spenti della bellissima conoscenza che hai avuto con la figlia di John Hyatt, praticamente. Sì, proprio quest'estate ho avuto la possibilità di fare questo tour a luglio insieme alla figlia di John Hyatt, per lei, anzi per tutta la band, perché erano quattro musicisti splendidi di Nashville, fantastici musicisti. Ho avuto la possibilità di fare questo tour con loro, era il loro primo tour vero e proprio, e sono partiti dall'Italia ed è stato bellissimo. È sempre bello il confronto in generale con gli altri musicisti. Esattamente. E con gli americani forse c'è ancora di più da parte loro la predisposizione a confrontarsi e a collaborare. Ecco, esatto, tu hai detto una cosa giusta, a collaborare, che in Italia non succede o succede poco. È difficile, cioè, soprattutto se parliamo dei grandi nomi. Io prima parlavo microfoni spenti di Michele di Michael McDermott. Certo, Michael, che è un musicista straordinario che io amo assolutamente, moltissimo. Io lo considero assolutamente un grande nome. Magari il grandissimo pubblico non lo conosce, ma è per me assolutamente un grande. C'è un approccio diverso da parte degli americani. Io credo che sia dovuto proprio anche al fatto che ci sono più spazi da loro. Ecco, esatto. E c'è una quindi cultura diversa. C'è meno competizione. Mm. Sicuramente c'è competizione anche tra di loro. Certo. Però forse è meno morstua vita mia rispetto all'Italia, dove bisogna un po' più sgomitare per cercare di farsi spazio. E quindi questo favorisce sicuramente le collaborazioni, ma anche semplicemente il fatto di dividere il palco, fare un pezzo assieme. È una cosa bellissima che comunque a me è servita per crescere sicuramente. E queste parole che tu hai detto adesso sono le stesse parole che mesi fa hanno citato i ragazzi di un gruppo dei Birds, che è un gruppo di Dolo, che è venuto sono venuti assieme a Mr. Lurie, che è un professore americano, lo chiamo professore, c'è un grande artista americano che suona il piano. E c'era collaborazione, come tu hai citato, tra musicisti americani e musicisti italiani. Non c'era nessuna divisione. Suonavano assieme senza nessun problema. Questo no, è importante. Assolutamente. Ma alla fine la musica è questo. Specialmente esatto. Poi è ancora più, insomma, è più naturale quando poi si è in una realtà, diciamo, piccola, se vuoi. Quindi quando si suona magari in piccoli locali, cioè perché ci dovrebbe essere una competizione? Esattamente. Se non collaboriamo tra di noi è finita. Parlavamo prima anche delle radio, colgo l'occasione pronto per ringraziarvi di questo spazio, perché se questa musica, questo genere musicale esiste e comunque arriva a qualche persona, e grazie comunque anche a queste realtà, anche questa è una collaborazione anche tra radio e musicisti. Certo, no? Certamente. Ovvio, più in alto vai, più probabilmente l'aria è meno respirabile. Lo so. Ok, andiamo avanti, sentiamo un altro pezzo, un'altra finestra. Il secondo prezzo che hai scelto, qual è stato? Qual è? Bambino disobbediente. Sì, lo descrivi un momentino. Beh, è una canzone ironica, sì. Spero divertente. C'è un coro di finti bambini e la canzone parla dei bambini che non sono più bambini, insomma. Che disobbediscono. Esatto, magari adesso la sentiamo. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave. L'onda del rock. Paolo, sei un bambino disobbediente musicalmente parlando. Sì. Non posso fare... No, assolutamente. Ecco, qui, sempre parlando dei musicisti, qui è, credo sia in evidenza il pianoforte, il tastiere di Antonello Aguzzi. Anche lui è un grandissimo... Ha fatto... Si divertiva qua, un divertissement suo, praticamente. È stato fantastico perché è venuto in studio. Vabbè, dico, non scriverò cose complesse a livello di Bach, ma non ho mai visto un musicista sentire il pezzo una volta, scriversi lo spartito, attaccarsi, pronti, via, suoniamo. Era buona, per me era buona la prima, però è andato avanti tutto il giorno a rifarla perché dovevo trovare quelle cose giuste, ma è veramente un musicista eccezionale, un pianista... Ma insomma, basta sentire le cose di Elio e le storie tese, certo, insomma, certo, si capisce il livello. Per cui sono bravissimi, musicista... hanno sempre definito Elio e le storie tese i zappi. Zap italiano, zappisti italiani, sì, sì, sì. Zappisti. No, ma... zap italiano praticamente. Ma è così, sono tutti musicisti fantastici e, insomma, buona la prima immediatamente. Non comunque posso dire riconoscerli tutti personalmente molto bene, ma posso dire per quello che li conosco umanamente sono persone, anche persone strepitose. Ecco, a differenza, se posso permettermi di dire, di molti altri loro pari livello in Italia, ecco. E no, Bambino disobbediente invece, appunto, volevo, l'idea era arrangiarla un po' come una party song, pensavo, sì, a Sherry Darling di Bruce Springsteen, certo, queste cose qui un po' giocose. È una canzone ironica, parla, è un tema che tocco diverse volte durante il disco, dei quelli che io chiamo i rivoluzionari da salotto, no? Insomma, ci si riempie, c'è una canzone, la canzone che apre il disco, che poi magari più tardi vi suono, sentiamo, che si intitola appunto "Sei veramente pronto per la rivoluzione", dice, e appunto rivoluzione, ribellione, sono tanti termini, tante parole di cui spesso ci si riempie la bocca, ma poi basta accendere la televisione per vedere questi rivoluzionari che sono più realisti del re, sono proprio rivoluzionari da salotto. Allora l'idea del bambino disobbediente, di questa cosa qui, del non voglio fare il giro tondo, queste... mi piace ironizzare, usare un po' l'arma dell'ironia, un po' come, ecco, un'altra delle mie influenze, sicuramente Bennato e Rino Gaetano, sono tra i maestri di ironia, e spero, certo, di ironici al 100%, di aver imparato qualcosa chiaramente. E come crei un pezzo? Come viene creato con la chitarra e poi viene sviluppato? Oppure? Ma di solito parto da un'idea, per esempio in questo caso c'era l'idea, avevo proprio l'idea del coro dei bambini, che poi non sono bambini ma sono i miei amici che sono venuti a registrare in studio, e avevo proprio l'idea di questo coro, era proprio partito dall'idea, voglio fare una canzone sul bambino disobbediente, questo era il tema, e da lì l'idea del la la la la la la la dei bambini che battono le mani, e da lì è venuta poi la musica e il testo di conseguenza, insomma, un po' parte sempre dall'idea, cioè mi cade il martello sul piede e voglio raccontarlo, è ovvio che userò un tipo di, prendo la chitarra e naturalmente mi viene da suonare in un certo modo, se magari invece sono più malinconico prendo la chitarra e suono in un modo diverso, quindi insomma parti sempre dall'idea e poi viene la musica e poi il testo, magari da una frase musicale poi si sviluppa tutto il resto del testo. Un nostro ascoltatore Gino ti manda i suoi saluti praticamente. Gino, spero, Gino. Dovrebbe essere Gino, se è il Gino che intendo io lo saluto caramente. Bene. Spero di avere modo di incontrarlo presto, non siamo vicini, penso che sia Gino da Avellino, anzi da... mi sfugge il nome del paese esatto, ma comunque gli mando un caro abbraccio e lo ringrazio. Benissimo, ok, molto bene. Siamo pronti? Sì, siamo pronti. Candida, per il live. Candida. Okay, siamo pronti per il live. Cosa ci fai sentire come inizio del live? Allora, ti faccio sentire, magari, visto che abbiamo appena parlato, sei veramente pronto per la rivoluzione. Esattamente, facciamo quello allora. Ringraziamo il nostro staff, oltre a Michele in regia, chiaramente Roberto Badi che ha curato le telecamere, Alberto Prisco che ha curato l'organizzazione del programma. Sei veramente pronto per sentire la mia voce? E bada che sentire non vuol dire ascoltare. Sei veramente pronto per sentire le parole, quelle che non ti hanno detto forse tu non hai sentito mai. Sei veramente pronto a non sapere dove andare, a vivere e morire o solamente a riposare. Sei veramente pronto per difendere un errore. Sei veramente pronto. Sei veramente pronto per lasciare la tua casa. Sei veramente pronto a non avere più difesa. Sei veramente pronto a non avere più paura. Sei veramente pronto a non avere più una scusa. Dov'è la la rabbia. Sai cosa vuol dire la rabbia? Dov'è, dov'è, dov'è il coraggio? L'hai mai conosciuto il coraggio? Di chi parte sempre in svantaggio? Sei veramente pronto a non avere direzione? Are you really ready for the revolution? Sei veramente pronto per vedere dentro te? E bada che vedere non vuol dire mai guardare. Sei veramente pronto per difendere il dolore? Sei veramente pronto? Sei veramente pronto per morire o ammazzare? Sei veramente pronto a non poter più scappare? Sei veramente pronto a non poterti lamentare? Sei veramente pronto a non poter più rimandare? Dov'è la rabbia? Sai cosa vuol dire la rabbia? Dov'è, dov'è, dov'è il coraggio? L'hai mai conosciuto il coraggio? Di chi parte sempre in svantaggio? Sei veramente pronto a non avere direzione? Are we ready for the revolution? Sei veramente pronto a non avere direzione? Are we ready? Are we ready for the revolution? Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E il rock non guasta mai, Paolo, eh. Il rock va sempre bene. Un po' di rock ci vuole sempre, un po' di rock and roll. Grinta, voglia. Assolutamente sì. Bello. L'hai interpretato bene questo pezzo, che è un pezzo che deve essere interpretato così, ci vuole grinta. Sì, è una canzone, penso che sia un po' provocatoria, sì, se vuoi, ma comunque nasce in questo caso appunto da anche un po' dalla rabbia, se vuoi, quindi insomma lo spirito con cui l'ho scritta è quella e con cui poi l'abbiamo suonata e registrata. Anche, è andata quindi, così, chiaramente. Sì, è andata così, è proprio il discorso che ti dicevo prima, si ricollega appunto a Bambino Disobbediente e diciamo che racconta da un altro punto di vista la stessa cosa. Penso che scrivere canzoni sia anche un po' raccontare se stessi, raccontando se stessi, raccontare il mondo che ci circonda. A proposito di questo, tu hai citato una frase di Lucio Battisti, adesso la citiamo più ampiamente. Qual è la frase che hai citato di Lucio? C'è una frase che mi ha sempre colpito di Battisti, che era: non ha senso, che senso ha scrivere canzoni che appoggio bustone non sono in grado di capire. Esatto. Cioè, proprio discorso che si può capire da qualsiasi parte, da appoggio bustone all'eco a Parma. Sì, assolutamente. Parte. È proprio il discorso dell'utilità delle canzoni. Io mi ricordo quando avevo appunto 11 anni, credo, che ascoltai per la prima volta L'isola che non c'è di Edoardo Bennato e mi innamorai delle canzoni, proprio in generale del potere delle canzoni, la capacità di parlare, di toccare le tue emozioni e poi cambiarti anche come persona. Io credo che se non avessi ascoltato quel giorno quella canzone, probabilmente la mia vita sarebbe andata diversamente, ma anche probabilmente la mia sensibilità sarebbe stata un'altra, e quindi il mio modo di rapportarmi anche ai problemi poi della vita, insomma, anche a relazionarmi con gli altri, no? Quindi questo è il potere che hanno le canzoni. Un'altra frase che mi piace molto è una frase diceva David Crosby, diceva: non sono le canzoni a fare le rivoluzioni, ma sono le idee. Però le canzoni sono il miglior veicolo possibile per le idee. Ed è proprio così. Esatto. E allora, ritornando appunto al discorso invece di Lucio Battisti, quello che è il mio obiettivo è quello di cercare sempre di parlare in maniera diretta e in maniera comprensibile a tutti. Mi ha sempre emozionato la capacità di Bennato, di Rino Gaetano, di Battisti, ma anche di André, di dire grandissime cose, di parlare di temi anche difficili, però con la semplicità, una semplicità comprensibile anche a chi magari aveva la terza elementare. perché è così che comunque si possono toccare le coscienze e magari stimolare a ragionare su una determinata cosa. E a tal proposito, sempre a microfono spento, tu hai detto una cosa che ha detto il boss, adesso la puoi ripetere. Qual era, aspetta? Sui Nirvana e su Bob Dylan. Ah sì, sì, no, assolutamente. Lui è, quando il boss quindi Springsteen. Sì, ma perché quando appunto parlo di Springsteen, ma come di Bob Dylan o di Neil Young, insomma di questi grandi, mi piace parlare di loro non soltanto dal punto di vista musicale, ma proprio della loro filosofia, del modo del loro modo di approcciarsi alla musica e al loro mestiere, no? Non solo il mestiere, al loro ruolo. E appunto Springsteen diceva: la rivoluzione in musica l'hanno fatta Bob Dylan e Nirvana, perché erano Bob Dylan e Nirvana, ma passavano nei canali convenzionali. Allora, magari dove c'era 14enne che in quel momento ascoltava la techno in radio, cavolo, veniva fuori in Nirvana con Smells Like Teen Spirit, per esatto. esempio, no? Oppure About a Girl, non lo so. Esatto. Allora lì cambi le cose, perché tu vai a parlare a una persona che altrimenti non ti verrebbe a cercare. Idem Bob Dylan quando passava nelle radio convenzionali, no? Certo. Essendo Bob Dylan, dicendo cose assolutamente rivoluzionarie. Se queste cose le dici nella nicchia, ti viene a cercare soltanto chi già la pensa come te, e allora ce le raccontiamo tra di noi. Ed è comunque bello, comunque emozionante, ma... Però è riduttivo. Come non smuovi una sola anima che non sia già smossa, esatto, capisci cosa voglio dire? Questo è importante. E allora è bello riuscire magari, per me è bello pensare che ci sia una canzone che dice delle grandi cose in una maniera semplice e che sia comprensibile a una persona che in quel momento sta pensando a tutt'altro e che magari sta guardando X-Factor, esatto, e non si porrebbe certi esatto. problemi. Cioè Elio e ecco. X-Factor. Cioè Elio, già il discorso di X-Factor con Elio, sì. Secondo me sarà molto interessante. Visto che Elio è un personaggio... al di sopra delle righe. Ma diciamo io non parlo del programma, parlo di Elio. Elio no, è un lui è una persona, secondo me, intanto è una persona competente che ha molto tutto il diritto molto di parlare musica. Se persone come lui andassero in televisione a parlare di musica, più ce ne sono di persone come lui in grado di parlare di musica, meglio è. Però credo che sia nel posto sbagliato. Io credo che soprattutto penso, ecco, io non voglio criticare la trasmissione perché funziona, cioè dal punto di vista televisivo è una trasmissione che funziona, così come quella, certo. quella che c'è su Mediaset, no? Ma il problema è questo, quindi capisco la logica televisiva, capisco anche la logica dei ragazzi che ci vanno, perché probabilmente avessi avuto io 18 anni magari ci avrei provato anch'io, io non voglio dire quindi niente. Quindi assolutamente. Io dei reality non sono cose negative al 100% secondo me. Allora, no, il discorso è questo, è che la situazione... oggi della musica è questa, che ormai è l'unico modo per emergere e passare da lì. Certo. Allora io penso questo, penso che soprattutto mi aspetto da certi artisti, soprattutto quelli che poi fanno della musica, non soltanto quelli che pensano che non siano solo canzonette, ma che poi ne fanno anche una questione di impegno della musica, di prendere posizione. Cioè io credo che in questo momento ci siano i reality e ci sia la musica vera in Italia. La musica vera sta soffrendo molto per colpa dei reality. Sì. Quando il direttore artistico della più grande major che c'è si dimette per andare a fare il giudice dei reality, capisci qual è la situazione in Italia? Chiaramente. Capisci? Allora tu devi scegliere. A me, veramente, a me fa male vedere gente che ho stimato andare ad avallare questo sistema, ad alimentarlo. Ad alimentare. A me questo spiace, francamente. Chiaro, è chiaro. È chiarissimo. Il resto lo accetto tutto, capisco anche le logiche delle case discografiche, certo, capisco certo. tutto. Non capisco chi può scegliere di opporsi a questo sistema che invece lo appoggia. Benissimo, 22:47, visto che c'è tanta carne al fuoco, passiamo a un pezzo che è strano questo pezzo. Prima è passato per il Macerata, poi è arrivato a Castrocalco. Ah, ok. Come mai due pezzi, sempre lo stesso pezzo, con due successi notevoli? Macerata non è semplice arrivare al Festival di Macerata nei primi posti, e poi è arrivato anche a Castrocalco. Sì. Supermarket, il pezzo si intitola Supermarket d'Italia. Esattamente. Ma sì, è una canzone... Che adesso questa la farai dal vivo. Sì, ne parliamo prima. No, ne parliamo prima. Ma è una canzone appunto che avevo scritto, è la più datata di questo disco intanto. Fu proprio, penso, il primo demo che registrai in casa mia col mio quattro piste, avevo un Fostex. Registrai questo demo, lo mandai a Recanati, al primo Recanati. Allora si chiamava Premio Recanati. Si chiamava così, sì. Ma era veramente la prima volta che mandavo un demo e arrivai in finale. Certo. Diciamo che mi sono reso conto dopo dell'importanza di quel risultato. Finale fra un sacco di sì. musicisti, di gente che manda i demo, mandava i demo. Sai, io avevo 23 anni, mi sono reso conto veramente dopo di quello che voleva dire aver avuto la fortuna di essere stato scelto, che la canzone fosse piaciuta. Certo. C'è anche fortuna in questo, devo dire. Chiaramente sì. E quindi arrivò in finale al Premio Recanati e l'anno dopo con la stessa canzone a Castrocaro. A Castrocaro, insomma. Ma per me era anche lì una cosa strana, perché è un festival nazionale popolare, se vuoi, Castrocaro, di cui non ho un bel ricordo, francamente. Non ho un bel ricordo perché c'era proprio la sensazione di che la musica fosse l'ultima cosa importante di quel festival, cioè veniva tutto il resto, cioè i musicisti, noi cantanti eravamo proprio l'ultima cosa importante. Cioè, per farti un esempio, noi eravamo 10 finalisti, 3.000 iscritti, siamo partiti in 3.000, non si sa quanti semifinalisti, sono arrivati in finale, 10 finalisti, ci dissero alla fine che guardate, non potete cantare la vostra canzone, dovete cantare una canzone italiana nazionale popolare. Cioè, come? Perché siete in diretta sulla Rai e non potete? Ma come? E ci misero un bussolotto, guarda, davvero, un bussolotto con dietro 10 bigliettini, a sorteggio, ci fecero sorteggiare il titolo della canzone da cantare, alla fine riuscì a cavarmela con Gianna di Rino Gaetano. Io penso. Andava bene. Ma in realtà io pescai e la luna bussò, poi riuscì a scambiarla, c'era anche chi pescò mi vendo, cioè capisci che tu è veramente difficile. È difficile, sì. L'ultima cosa, cioè, per esempio, era pensare alle tonalità in cui cantare questa canzone, cioè non frega niente a nessuno del fatto che tu dovessi andare lì a cantare e giocarti anche la faccia se vuoi in diretta, non interessa niente a nessuno. Quello che era importante era la sfilata di moda e insomma e tutto il resto, e quindi diciamo non ho un bel ricordo di questo. Nonostante questo, però, diciamo, mi rimane la soddisfazione che la stessa canzone, diciamo, è riuscita a colpire, diciamo, due pubblici diversi, come quello di Recanati, diciamo, più d'elite, se certo. vuoi, e quello di più nazionale popolare di Castrocaro. E quindi quella è stata una soddisfazione, e penso che, se vuoi, tornando al discorso di prima, per me è stato appunto una soddisfazione di vedere che questa canzone forse era un pochino trasversale, cioè era in grado di toccare tutte e due le tipologie di ascoltatori, anche chiaramente sì. E niente, okay, siamo pronti, allora la faccio sentire. Benissimo, chitarra e voce. Chitarra e voce, Paolo Pieretto, questo è Supermarket Italia. Italia, ok. Fanno paura gli zingari alla gente, perché san leggere il domani. Fanno paura i mendicanti fuori dai supermarket italiani. Via di qua, che ci rovini l'immagine. Via di qua, ti devi alzare e camminare. Via di qua, che si lamentano i clienti dell'odore e del color della tua pelle. Venga qua, signore, guardi che occasione, venga qua, le faccio un prezzo di favore, 30.000. Una pantera nigeriana fa tutto ciò che vuole, fa tutto ciò che può. Fanno paura gli zingari alla gente, perché san leggere il domani. Fanno paura i mendicanti fuori dai supermarket italiani. Guardi qua, vendo il perdono dei peccati. Guardi qua, pagate, sarete ripagati, spendo tutto, vi sconto anche il purgatorio. Andate pure in pace, andate pure in pace. Alto là, e dove credi di andare? Alto là, e metti in mostra quelle mani, mi fai male. Ti ho detto che devi tacere, io sono la legge, io sono la legge, io sono la legge, io sono la legge, io sono la legge, io sono la legge. Fanno paura gli zingari alla gente, perché san leggere il domani. Fanno paura i mendicanti fuori dai supermarket italiani. Compra le armi da noi, compra le armi da noi, compra le armi da noi, compra le armi da noi, italiani, italiani, italiani, italiani. Fanno paura gli zingari alla gente, fanno paura gli zingari alla gente, fanno paura gli zingari alla gente, fanno paura gli zingari alla gente, italiani, italiani. E compra le armi da noi, compra le armi da noi, oh, compra le armi da noi. Le armi da da noi italiani. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org. Stasera ci potete sentire e vedere, quindi ti possono anche vedere, Paolo. Salutiamo tutti. Salutiamo un caro saluto anche alla Nicoletta, alla Silvia e alla Patrizia che ci seguono sempre. Grazie, salutiamole. Salutiamole. Ok, beh, un pezzo con un bel testo tosto, pesante, incisivo, possiamo dire questo. Ma è proprio per il discorso di prima, cercare di riuscire a farsi capire il più possibile senza fraintendimenti. Esattamente. Qui, diciamo, la canzone forse mette anche forse un po' troppa carne al fuoco, ma comunque posso raccontare com'è nata. Io sì. Lavoravo con questo ragazzo che era marocchino, mi diceva noi in Marocco abbiamo un supermercato a Rabat, uno a Casablanca, uno a Marrakesh. Qua in Italia, soltanto a Casatenovo, che era il mio paese, ci sono 5 supermercati. È tutto supermercato l'Italia. Tutto... Allora, mi piaceva l'idea di rappresentare l'Italia come questo grande supermercato dove tutti siamo in vendita e tutti vendiamo. Cioè, siamo vittime del sistema che noi stessi alimentiamo, no? Spesso parliamo in generale di vari problemi, ma poi non ci facciamo mai l'esame di coscienza e pensare che se certe situazioni esistono è perché siamo noi che le vogliamo, dalle prostitute, ma anche discorsi, come si può parlare, anche la mafia stessa, siamo magari noi stessi i primi a esserne parte, senza magari rendercene conto, no? Certo. Siamo proprio vittime del sistema che noi stessi alimentiamo. Mi faceva... Era ironico per me pensare poi all'idea degli zingari, se fuori dai supermercati che ti leggono la mano, che vengono così temuti, forse appunto perché sanno leggere il domani. Sembra che faccia paura a quello, forse perché fa paura al futuro stesso che stiamo scrivendo, no? E niente, quindi tutte queste cose insieme, l'idea era partita qua da lì, però in questo caso proprio dal titolo, l'idea del Supermarket Italia. Dal vivo come lo esegui questo pezzo? Hai dato molta grinta, molto pathos, siamo chitarre e voce, chiaramente. Sì, beh, dal vivo è difficile renderlo nel disco, diciamo, appunto qui suona Leo, sì. De Angilla, ci sono le chitarre qua, Franco Cuffone. Un po' più complesso. Esatto. Antonio Di Bella, anche voglio ricordare, che è un fisarmonicista che suona sul disco e qua fa i cori. E Valentina Di Doni, un'altra cantante ancora. Quindi un bel gruppo. Sì, sì, tanta gente. Tanta gente, un po' la volta me li ricordo e mi piace citarli tutti. Giusto. Nel caso di Supermarket Italia, dal vivo c'ho tutto un altro arrangiamento, nel senso che spesso andiamo a suonare in tre chitarre, io, Franco Cuffone e Davide D'Abusti, a volte quando può c'è anche Python che si aggrega, quindi addirittura diventano quattro chitarre. E l'arrangiamento comunque cerca di mantenere la grinta, ma anche un po' di tensione, insomma, quindi è diverso da quello del disco, bisogna proprio sentirlo dal vivo con tutte le chitarre. Quattro chitarre comunque è una cosa molto interessante, è anche difficile o no, Paolo? Ma diciamo che se... Sono fortunato perché veramente sono bravi musicisti che sono in grado di ascoltarsi immediatamente e di anche di rispettarsi, no? Capito? Stimandosi loro molto tra di loro, e quindi ognuno ha il suo ruolo e le chitarre, diciamo, credo che chi è venuto a sentire il concerto può confermarlo, che non si sovrappongono, insomma, non danno fastidio, ma ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha la sua parte, quindi vanno studiate, insomma, questo sì, è difficile improvvisare quando si è in così tanti sul palco con lo stesso strumento, ecco. Benissimo, ok, sono quasi le 23, alle 23 noi abbiamo un giochino, ma prima di arrivare al giochino, un altro pezzo live, sì. Paolo, a tuo piacimento, cosa suoniamo? Guarda, ti suono una canzone che, visto, ho citato Antonio Di Bella, fisarmonicista, una canzone che sul disco appunto è con la fisarmonica, si chiama Un metro dalle nuvole, so che l'hai suonata per un mese consecutivo, per cui io ti ringrazio parecchio e te la dedico con l'augurio di sentirvi sempre così a un metro dalle nuvole. Perfetto, perfetto. Di notte ci inseguiamo come lacrime in discesa, ci cerchiamo per la paura di non averci più, o per rubare alla notte perlomeno un bicchiere di sereno, di dignità. A volte siamo così stanchi da non riuscire nemmeno più A guardarci lasciamo un sasso ad ogni minimo passaggio, fino a dividerci con un muro di silenzi, incomprensioni e di rancori. E a volte su quel muro poi ci alziamo con il dito verso il cielo ed un rosario di domande, le tasche piene di perché ed un diluvio di farò. Se mi cerchi sono qui, a un metro dalle nuvole, a un metro dalle nuvole, qui in libertà. E a volte da quel muro poi scendiamo con in pugno una risposta che può far male, rivoluzionare. E allora siamo pazzi, siamo tutti da legare, siamo gente da evitare. E allora eccoli nei chilometri di libri sotto le tombe dei papi e i loro ori di che possano bruciare con tutti quanti i loro dei per altri mille giubilei. Se mi cerchi sono qui, a un metro dalle nuvole, a un metro dalle nuvole, qui in libertà. E gli anarchici son come i miei capelli, sempre di meno, sempre più ribelli. Sarà che sono rimasti gli ultimi, ma mi sembrano i più belli, ma mi sembrano i più veri, e questa lettera è per te. Tu lo sai che cosa c'è? Se mi cerchi sono qui, a un metro dalle nuvole, a un metro dalle nuvole, a un metro dalle nuvole, qui in libertà. In libertà. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Sono le 23 e 2 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, Paolo sta accordando perché live si accorda live, gli strumenti si accordano live, dicono gli cultori degli strumenti, dicono che qualche una temperatura un po' diversa fa ascoltare lo strumento. Ah, sì, in realtà su sto pezzo il mio mi era un do diesis. Il testo aveva qualche collegamento, sia pure alla lontana, un po' con De Andrea, un po' con Guccini, secondo me. Sì. Ma ti ringrazio, insomma. Perché il mio obiettivo è avvicinarmi il più possibile. Ricordare, chiaramente a grandi linee. No, qualche punto di riferimento, qualche tassello forse. Ma questa canzone, allora, quando prima ti parlavo appunto del fatto che sono passati diversi anni da quando l'ho scritta, quando poi il disco è uscito, mi ha permesso, lavorandoci sopra, poi anche proprio arrangiandole, ricantandole diverse volte in studio, anche un po' di analizzare quello che ho scritto. Perché in diversi casi magari scrivi di getto, poi magari ti può piacere, ti può dire qualcosa, può evocare qualcosa quello che scrivi, però magari è come una psicanalisi, no? Sì, un flusso di coscienza a volte, e capisci dopo veramente quello che hai scritto. In questo caso è successo un po' in Echi di Luna e anche in questa canzone. Io ho sempre avuto una grande stima per quegli artisti che sono in grado di farti passare in pochi istanti dalla riflessione quindi magari alla rabbia, a commuoverti e farti ridere a crepapelle. Penso a Benigni, per esempio, certo. È uno in grado di in pochi secondi di farti toccare tutte queste corde dell'emozione. E mi piace, ho notato nel senso, nel mio piccolo, in questa canzone è in tre strofe. La prima strofa è malinconica, è molto, sì, introspettiva. Certo, sì. La seconda strofa è quasi un'invettiva. Esattamente. E la terza c'è l'ironia, quella cosa sugli anarchici, sono come i miei capelli, che chi può vederci può vedere che non sono proprio folti. Sono tre momenti diversi. Mi piaceva, appunto, avevo notato questa cosa e mi piaceva, quindi credo che ci siano un po' queste cose. È un proprio, parla alla fine di qualcuno che cerca delle risposte. E spesso quando magari cerca delle risposte e credi di afferrarle, mi piace pensare che tutti quelli che fanno musica, ma anche chi dipinge, che comunque si occupa di arte in generale o artigianato, appunto di parole, è come se avesse capito qualcosa della vita, certo, che no, certo. Qualcosa di diverso da quello che hanno capito gli altri, nel senso magari completamente diverso, che gli altri non pensano minimamente, ma ognuno ce lo propone col suo stile, chi con la musica, chi dipingendo, chi facendo dei film, certamente. E quindi niente, questa canzone appunto parla essenzialmente di solitudine, di qualcuno che cerca le sue risposte, che magari arriva ad afferrarle, magari poi passa per pazzo e magari si perde nella sua follia e niente, quindi, e credo che tocchi un po' le corde sia dell'ironia che del viaggio interiore. Certo, adesso tocchiamo altre corde, sì. Giochetto delle 23, 23 e 5. Sono curioso. Sì. Non me l'avevi detto. Lo so, non te l'ho detto, appunto perché il feeling, l'emozione ci sia. Ok. I tre dischi, facciamo tre, non cinque, è un po' più lungo il discorso. I tre dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola di Bennato, ma può essere anche l'isola di Bennato. Beh, di Bennato sicuramente sono solo canzonette per me, ma proprio per un discorso affettivo, perché c'è l'isola che non c'è, che è una canzone strepitosa. Diciamo che tutto il Bennato degli anni 70, io fino all'80. Quindi Un Giorno Credi. Sì, da Un Giorno Credi fino appunto a Sono Solo Canzonette, che è dell'80, sì. Per me è qualcosa di assolutamente divertente, geniale. Assolutamente tutti i dischi fantastici, e quindi dico Sono Solo Canzonette per l'isola che non c'è, che è la canzone da cui per me è partito tutto. Certo, certo. Un altro disco, parlavamo di Springsteen, un altro maestro sicuramente, guarda, Boss. Sono indeciso tra Born to Run and The Wild, The Innocent and The Street Shuffle, però dico il secondo perché c'è New York City Serenade, che secondo me dice molto di Springsteen, nel senso che Springsteen magari uno a quelli che lo conoscono meno magari può sembrare semplicemente del rocker, insomma, duro e puro, via dritti, capito, no? In realtà ha la capacità di scrivere delle cose come New York City Serenade, ma come Jungleland o Incident, insomma, sì, qualcosa del genere che lo differenziano dai rocker classici. Ecco, ha fatto delle ballate, esempio, amo molto per esempio Steve Earle. La differenza tra Springsteen e Steve Earle è che Steve Earle una New York City Serenade non la scriverà mai, è un po' più rozzo. Esatto, capisci? Esattamente. Ecco, quindi questi sicuramente. Il terzo disco, facciamo anche un quarto, dai, visto che ci siamo, fai presto a declamarli tutti. Allora, il terzo, mamma mia, guarda, non lo so, veramente è difficile sceglierli, è difficile veramente sceglierli. Guarda, ti dico un disco di De André, ti dico quelli con la PFM, nel senso perché, quelli dal vivo con la PFM, perché lì è l'incontro secondo me tra la poesia di De André e il rock, quindi anche a proposito di Lucida che tu citavi, sì, all'inizio, sì, è proprio l'incontro proprio tra la poesia, diciamo forse il punto massimo dell'espressione della canzone d'autore italiana, con il rock, che forse la PFM sono stato il punto massimo dell'espressione del rock italiano. Però sono d'accordo con te, certo. E quindi insomma, sentire Amico Fragile in quell'arrangiamento è totalmente diverso, cioè l'ha cambiato totalmente. Sì, è come se i Pink Floyd suonassero una poesia di Shakespeare, certo. Insomma, per fare un esempio. E quindi quei dischi secondo me sono stati importanti per capire anche appunto il valore degli arrangiamenti sulle canzoni. Non basta appunto secondo me scrivere le canzoni, chitarra e voce, cioè sono convinto che una buona canzone arrivi anche così, però quando vuoi fare un disco è importante anche saperle vestire nella maniera giusta, e credo che De André in tutti i suoi dischi li sia stato anche grande abbastanza da avere l'umiltà di farsi aiutare da grandissimi collaboratori, da Fossati, insomma tutti quelli che si sa. Io amo particolarmente di De André un disco che si chiama La Buona Novella, sì, quello secondo me è il disco più bello che abbia mai scritto, dipendentemente dal tema importantissimo, fondamentale, certo. Però è un disco meraviglioso, assolutamente sì, ma li amo tutti, volevo, per me era importante e anche in quelli vedi c'erano comunque dei discorsi sugli arrangiamenti, anche sì. Lì c'erano fior di maestri che, certo, insomma, in tutti ma anche in Storia di un Impiegato, anche, sì, in tutti. Anche Storia di un Impiegato è un disco un po' oscuro, un po' difficile, certo, però c'è Gregorio Corso in mezzo, cioè Però verranno a chiederti del nostro amore, una canzone. È una canzone meravigliosa. Assolutamente. Questi dischi, un quarto, guarda, ti dico un quarto disco di, non lo so, di un outsider. Prima parlavamo appunto di Michael McDermott. Io ti cito, ho avuto la fortuna appunto di fare questo tour l'anno scorso con Michael. Citiamo questo musicista che pochi conoscono. Eilai era il disco del suo ultimo disco. Ho avuto la fortuna di accompagnarlo nel suo tour italiano dell'anno scorso e ho conosciuto intanto un amico, anzi lui piace dire fratello, quindi ha assolutamente un fratello. Parodi è fratello di sangue, questo Parodi come... Blood Brothers, quindi, quindi siamo tutti fratelli, tutti di madri fratelli. Diverse, ma, tutti ma comunque sì. Ma, la musica siamo sempre tutti fratelli. Esatto, sì, secondo me sì, siamo soprattutto tutti sulla stessa barca. Certo. E speriamo di remare tutti nella stessa direzione. David Dermott, che è bravissimo. E quindi questo ultimo disco proprio anche qui per un discorso affettivo, perché è un tour che mi ha dato molto. Mi ha segnato molto, mi ha dato il piacere di stare sul palco e di appunto di confrontarmi, e per me lui è un esempio, e quindi questo disco è, diciamo, era per citare un outsider, ho fatto nomi di cantanti famosi, lui è un outsider di lusso, esattamente. 23:10, cosa dici? Hai voglia di fare un altro pezzo live? Assolutamente. Perfetto, quello che vuoi te, a tuo piacimento, anche pezzi che non ci sono nell'album, vedi te. Guarda, facciamo così, intanto che ci penso ai pezzi che non ci sono nell'album, ma ti suono una canzone, se abbiamo parlato di Andrea, una canzone che canto con Andrea che si intitola Perché ho un'idea. Ok. Perché un'idea può spaventare più di un grido in piena notte o il vento che sbatte le porte. Perché un'idea può fare male molto più di un pugno chiuso che si scaglia in pieno viso. Perché un'idea fa più paura di una guerra sanguinaria, di un aereo militare, quello sì campato in aria. E non è un'arma né un soldato, non è un pazzo squilibrato, ma un'idea destabilizza molto più di un carro armato che cammina lentamente sopra ogni indifferenza, sradicando le certezze chiuse dentro la coscienza. E per questo fa paura quando parla ai potenti e dice: non mi avrete mai. Voi non mi avrete mai. Perché un'idea può andare oltre i divieti della legge, il silenzio dei giornali, le barriere materiali, e penetrare nelle case, spalancare le finestre, più di ogni ribellione, più di una rivoluzione. A mi dispiace, signor Topo, ho ancora voglia di lottare, di gridare, di rischiare, di cantare, stare male, di pregare, bestemmiare, di cercare, di trovare. Ho ancora voglia, ancora voglia, ancora voglia. E non mi avrete mai. Voi non mi avrete mai. Oh, mi dispiace, signor Topo, ho ancora voglia di lottare, di gridare, di rischiare, di cantare, stare male, di pregare, bestemmiare, di cercare, di trovare. Ho ancora voglia, ancora voglia, ancora voglia di lottare, di pensare, di cercare, di trovare, di cantare, stare male, di pregare, bestemmiare, di cercare, di trovare, cercare di pensare. Ho ancora voglia, ho ancora voglia, e non mi avrete mai. Voi non mi avrete mai. Voi non mi avrete. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. La 9. Ok, ok, perfetto. Dopo faremo sentire la traccia numero 9 del disco. Io ho letto una cosa che voglio sapere da te. Sì. Abbiamo parlato di Stati Uniti, abbiamo parlato di Austin. Sì. Adesso mi dici come ti sei trovato al South West di Austin. Ma allora, lì sono andato da turista, diciamo. Da turista infiltrato, in cui poi con il buon appunto Andrea abbiamo anche diciamo, perché il festival di Austin, diciamo, c'è il festival ufficiale, ma la cosa più bella è che a margine di questo festival c'è una miriade di locali, magari non all'interno del festival, di cui magari gli eventi non sono considerati all'interno del festival, ma in cui comunque si fa musica di grandissimo livello, e magari ci senti suonare I Love It piuttosto che Willie Nelson. L'hai visto suonare I Love It? Non l'ho visto a Austin in quel caso lì, l'ho visto in strada ma non l'ho visto suonare. Ne ho visti altri in quel caso. Quando sono andato io, non lo so, avevo visto Mary Gauthier, per esempio, Elvis Costello, Robert Plant, Brian Wilson. Insomma, mi era andata bene comunque. Quindi gente da niente. Alejandro Escovedo, anche gente che magari in Italia non è facile, anzi non ci vengono proprio, ma comunque. O comunque è difficile. Lo sai difficile cosa ha fatto Brian Wilson di recente? No, no, ha ripreso Gershwin. Addirittura, sì, no, questo non lo sapevo. Perché è stato la famiglia Gershwin ha scelto lui, cioè Brian Wilson, per riproporre dei vecchi pezzi di Gershwin rimasti nel cassetto, riprenderli, rivisitarli solo a lui. Quindi è stato concesso questo grandissimo onore. Ha fatto un disco adesso in classifica in America, ho visto al 30° posto questa settimana. Disco difficile, che lui riprende i pezzi classici di Gershwin, e non soltanto i pezzi classici, anche quelli sconosciuti, e li mette a posto, li rivive a suo modo. Sì, sì. Suo genio, col suo genio incredibile. Beh, quindi assolutamente da andare a sentire. È un disco molto interessante, lo stanno proponendo adesso, è uscito da pochissimo in Italia. Non è, questa e ripeto, non è che sia nelle posizioni alte delle classifiche americane, però sai... Però è nei primi 30, insomma, già essere nei primi 30. Beh, insomma, già non è male. Già non è male. Di questi tempi con. Esattamente. Quindi hai visto con l'hip hop che gira. No, era una conferenza. Era una conferenza. Perché il festival, appunto, diciamo che Austin è una città. Non è una città grandissima, pur essendo la capitale del Texas. È una città grande come Padova, per esempio, no? Non è grandissima allora, praticamente. Beh, non è una città come Milano, come grandezza come Roma, però in una città, diciamo, pur così piccola, ci sono una miriade veramente di locali in cui si fa musica. Quella sera lì, per esempio, la prima sera in cui arrivavamo, noi eravamo ospiti del figlio di Towns Van Zandt. Ah, grande Towns Van Zandt. Grande Towns Van Zandt. Di cui potrei citare qualche album da portare sull'isola, per esempio. Sì. Però... Io ricordo solo Flying Shoes. Flying Shoes, avrei detto quello. Ah, beh, bellissimo. E comunque, ti dicevo, eravamo suoi ospiti, tra l'altro presentavano nell'ambito di quel festival il film dedicato a Towns, Beer to Love Me. Certo. E quindi eravamo suoi ospiti e ci portò a suonare in questo locale, un localaccio, a dir la verità, però dove arrivò Calvin Russell, per esempio. E sono tanti anni che non lo sento più Calvin Russell. Sì, arrivò, non ti dico in che condizioni, ma... già all'epoca era messo male. E poi c'era in quel locale Charlie Sexton, che io e Andrea non riconoscemmo, cioè, capimmo che era anche, lui dopo, quando lo vedemmo sul palco con i Lost Super Seven ai tempi, e insieme a Calexico. Certo. E quindi, per dire, un locale brutto ma ben frequentato, insomma. Certo, noi suonammo proprio lì, in quell'ambito lì, grazie a JT. E appunto c'era proprio l'entusiasmo di trovarsi in questa capitale della musica, veramente, dove a ogni angolo di strada c'era musica proveniente da tutto il mondo. Devo dire che in quell'occasione veramente mancava solo l'Italia, nel senso che in realtà c'era un gruppo italiano, ma la cosa era, ecco, diciamo che l'Italia non si fa mai sentire in questi casi qui, diciamo, a livello di major, a livello di grandi... Infatti il lavoro che fa Andrea, e la Pomodori Music in generale, è quello proprio di creare questo ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti con questo tipo di realtà. Cito per esempio alcuni nomi che stanno arrivando adesso nei prossimi mesi. Eric Taylor arriverà, tra l'altro a fine ottobre ci sarà, per chi vorrà venire in Brianza, a Cantù, il 31 ottobre, un tributo a Towns Van Zandt. Chi ci sarà? Eric Taylor, ci saranno molti altri ospiti italiani e stranieri. Ci sarà anche, invece, nei giorni stessi ci sarà un altro cantautore texano, amico di Towns, che si chiama Rex Foster, che sarà in tour anche lui per l'Italia. Quindi, insomma, mi pare che il boss abbia detto una frase fondamentale su Van Zandt. Adesso non ricordo, o un suo musicista, adesso non mi ricordo, ha detto che certo rock americano non sarebbe esistito se non c'era Van Zandt praticamente. Guarda, questa non l'ho sentita, però c'è una bellissima frase di Steve Earle che dice: un giorno andrò, metterò i miei stivali migliori, andrò nell'ufficio alla scrivania di Bob Dylan, metterò i piedi sulla scrivania e dirò: il più grande cantautore del mondo è Towns Van Zandt. Ecco. Beh, era grande, vuol dire qualcosa del genere. Ci avviciniamo. E quindi appunto abbiamo fatto questa esperienza bellissima, appunto, proprio perché lì è difficile anche da spiegare, come essere in una città veramente dove in ogni angolo c'è uno stand di un paese diverso, di uno stato diverso degli Stati Uniti, dove si suona, è una cosa bello, bello. Sì, bellissimo. Ok, adesso abbiamo scelto la traccia numero 9, ti ricordi il titolo della traccia? Sì, Luna Brigante. Cosa parla Luna Brigante? Ma allora, ho scelto di farla sentire dal disco perché c'è la voce di Giuseppe Ballerini, ecco, vedi che un po' la volta me le ricordo tutte. Ti ricordi poi Giuseppe Ballerini, voglio parlare un attimo, voglio prendere due minuti per parlare di Giuseppe Ballerini perché... Il disco, sai, si chiama Artigiano di Parole perché gioca un po' su questo fatto che ormai tutti si definiscono artista, no? E io penso sempre che l'arte sia qualcosa veramente di grande. Quando penso a Michelangelo che prende la pietra, che è inanimata, la scolpisce, questa parla, quindi prende vita, ci parla, sopravvive all'uomo, sopravvive a Michelangelo stesso, ci parla ancora adesso, capisci che crei qualcosa di grande, quasi di divino, è quasi una scintilla divina, veramente. Allora, quello è un artista. E quella è l'arte. Definirmi artista per me è difficile, cioè nel senso preferisco definirmi artigiano, no? Giuseppe Ballerini, Pino, come lo chiamo io, è invece secondo me è un vero artista. In questo momento ha 96 anni ed è uno scrittore, cantautore, pittore. E veramente vi consiglio di andare a cercarlo su internet ed andare a conoscerlo. Abita Bobbio sull'Appennino emiliano. E lui aveva scritto questa poesia in cui diceva: cadono dai tacchi a spillo le stelle tra le braccia di chi esprime un desiderio. E l'ha scritta a 92-93 anni. Scrive queste cose fantastiche. E lui aveva sentito questa canzone perché il Davide da Busti è suo nipote, suona con me da tanto tempo, lui sentì questa canzone Luna Brigante e gli piacque molto l'idea della luna di sguincio, che dice la canzone. Allora gli chiese di recitare l'introduzione di questa canzone, lui ha una voce molto evocativa, insomma... un po' un Johnny Cash italiano, possiamo dire. E allora mi ha fatto veramente un grande onore venire a recitare, a fare anche questa fatica davvero, e per me è veramente un onore potervi far ascoltare la voce di Pino Ballerini che introduce Luna Brigante. Ok. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. E questa notte canto alla notte, d'un canto d'incanto che commuove la luna, e posso cadere sul mio splendore una lacrima sola d'argento e fortuna. Sul letto del mondo, sdraiati un poco qui nei miei sogni che corrono la mezzeria e tremano al blu delle luci di sirene che cantano senza poesia. Ed è splendore restare a guardare il cielo, riflesso nei miei occhi al cielo, e poi l'incanto sorprendere invece specchiare gli occhi nei miei occhi il cielo, ed improvviso stupito arrossire. Luna di taglio, stasera e dona il tuo sguardo migliore al carabiniere che ha un dolore lontano e che non l'amore e poi lascialo sospirare. Ed è splendore restare a guardare il cielo, riflesso nei miei occhi al cielo, e poi d'incanto sorprendere in te e specchiare gli occhi nei miei occhi il cielo, ed improvviso stupito arrossire, e resto solo stanotte a cantare alla notte un canto d'incanto che commuova la luna e possa cadere sul mio splendore una lacrima sola d'argento. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Diretta rockwave.alterlista.org, ci potete sentire e vedere stasera con Paolo Pieretto e la sua Artigiano di Parole. Dove possiamo trovare il tuo disco, Paolo? Ma nei negozi, se lo richiedete, dovrebbe arrivare, nel senso distribuito da Venus, potete dirlo, Artigiano di Parole. Oppure possiamo nel tuo sito. Beh, su MySpace o su Facebook potete contattarmi, comunque vi posso dare qualche dritta, ma su internet, nei siti nei negozi online, insomma, si può trovare. Si può trovare, esattamente. Senza far pubblicità, ma comunque si riesce a trovare. Oppure concerti, insomma. I prossimi concerti quanto saranno? Il prossimo concerto dovrebbe essercene uno a Bergamo, sto aspettando la conferma comunque nella zona di Bergamo. In Veneto non per ora no, ma spero, sono apertissimo a inviti, insomma, vengo molto volentieri, anche perché, come parlavamo prima, microfoni spenti, ho origini da queste parti. Infatti ho fatto questa bella giornata con mio papà a trovare i suoi parenti, che saluto se sono in questo momento, se ci stanno ascoltando, Curtarolo, zona di Curtarolo vicino a Padova, chiaramente vicino a Padova, quindi siamo qui e mi ha fatto questa giornata e niente, quindi spero di tornare anche magari a suonare dal vivo da qualche parte, molto volentieri, e niente. Quindi questo è il disco, lo trovate in questi nei soliti canali. Nei soliti canali, praticamente. Abbiamo sentito questo scrittore all'epoca ha scritto, aveva 88 anni, 90 anni circa. E li aveva passati. Poi adesso è 96, ancora, 96, ancora forte. Assolutamente, è veramente un grande artista. Possiamo dire un guru, io l'ho chiamato un guru. Sì, ma in realtà per me un po' lo è, perché io mi auguro veramente di arrivare, intanto di arrivare alla sua età, a prescindere. A prescindere. Arrivarci così con questa voglia, con questa capacità di sognare, di andare a prendersi le stelle, come dico in una canzone che poi vi suono. E niente, Luna Brigante è una canzone particolare perché... Anche come arrangiamento è particolare. Sì, qui suona Chicco Santulli, Terra d'Obro, esatto, e anche che dandogli questo un po' questo sapore anche qui di Tex-Mex, se vuoi, no? Esatto, Tex-Mex, e con che lui è un grande musicista. Ma Luna Brigante l'avevo scritta, era l'ultimo dell'anno di qualche anno fa, ed ero abbastanza giù, e vedi questa immagine qui nella strada che andava dove abitavo, insomma, verso Casatenovo, questa pattuglia di carabinieri. Ma saranno state le due di notte. C'era una luna gigantesca, sai, d'inverno, quando c'è proprio il cielo limpidissimo perché fa freddo, no? Certo. E c'era questa luna gigantesca, e c'era, sai, ci sono i soliti carabinieri, quello più giovane sta dietro col mitra, no, in realtà non fa niente, cioè ti ferma con la paletta quello più anziano, più anziano, diciamo, più esperto. Non mi fermare, io rallentai, quindi andavo pianissimo, li vidi in lontananza, e vedi questa immagine bellissima di questo ragazzo col mitra in mano che guardava la luna. E a me, io ci vidi una poesia in questa immagine del carabiniere che avrà avuto 20 anni, quel ragazzo probabilmente, era lì col mitra in mano e guardava la luna, l'ultimo dell'anno, chissà cosa pensava, magari pensava l'amore, il suo amore lontano. Mi sono immaginato la storia di questo brigante che pregava la luna di farsi grande e bella per distrarre il carabiniere per poter passare. E l'ho scritta, è una canzone che ho scritto di getto. Il testo lo scrissi proprio quella notte stessa. Quella notte stessa. Comunque, con poche modifiche dopo. Poi è stata colorata dalla musica, praticamente. È stata poi colorata dalla musica. E per me, ecco, questa canzone, quando parlavo prima delle canzoni, del criterio con cui ho scelto le canzoni da inserire, questa canzone per me rappresentava il bello dello scrivere canzoni, no? Magari nel vedere un'immagine così, vederci dietro una storia. Allora, questa canzone rappresentava per me questo, appunto, vedere una storia dietro una canzone. Poi ci, dietro un'immagine, scusa. Alberto ci ha comunicato che Emanuele Andreani è in ascolto. Emanuele, grande, un mio grande amico Emanuele. Salutiamo Emanuele, li saluto entrambi di Pesaro. No, non sono di Pesaro, ma comunque sono della zona. E ci siamo incontrati sia a un mio concerto, poi sono venuti a sentire la Lily Hyatt quando ero lì. Che è la figlia di John Hyatt. La figlia di John Hyatt, sì, quando sono andato con Lily sempre a Pesaro, e li saluto caramente. Anche loro spero di rincontrarvi presto. Benissimo. Ok, siamo pronti per un altro pezzo live, cosa facciamo? Parlavo di questa canzone, Stanotte, un brano che si chiama Stanotte. Mi ha posto il capotasto, ok. Ha posto il capotasto ed è una canzone di speranza, una canzone... Certo. Della suono, facciamo prima. Sono tutti morti e non m'aspetto un al di là. Non ci saranno redenzioni. Ogni lacrima è caduta, ma tu non sei quella che vedo. Non c'è rimasto più nemmeno un nascondiglio stanotte. Oh, stanotte andiamo a riprenderci le stelle. Stanotte, oh, stanotte andiamo a rivendicar le stelle. Stanotte. Mille anni nel deserto, per un secondo in paradiso, è proprio questo che volevi. Un ricordo ormai il passato, solo un'ipotesi il futuro, è tutto ciò su cui contare, è questo momento stanotte, oh stanotte. Andiamo a riprenderci le stelle stanotte, oh stanotte. Andiamo a rivendicar le stelle stanotte. C'è ancora tempo per sbagliare. C'è ancora tempo per rischiare, perché di sogni non si vive, ma per un sogno puoi morire. Ma stanotte, oh stanotte, andiamo a riprenderci le stelle stanotte, oh stanotte. Andiamo a riscattare le stelle stanotte. Ma stanotte, oh stanotte, andiamo a riprenderci le stelle stanotte. oh stanotte, oh stanotte. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ribadiamo un concetto che hai già, di cui hai già parlato prima. Tu hai scritto, hai detto, questo non è un punto di arrivo, ma di partenza il disco che hai scritto adesso, Artigiano di Parma. Sì, sì, perché intanto perché per me appunto era anche un po' un modo di fare, di fare il punto su quello che avevo fatto fino ai questi miei 30 anni, diciamo, questi anni. Tanta gavetta, come hai scritto in altri, un'altra sì, intervista. Che però è bella gavetta, che serve, anche se non è davanti a due persone serve. Ma allora diciamo che, voglio dire, non voglio essere ipocrita, a chiunque piacerebbe essere famoso e avere la possibilità di fare quello che faccio adesso davanti a milioni di persone, farsi conoscere da più gente possibile. Però diciamo, di contro la gavetta ti dà dei vantaggi, ti dà delle armi in più che secondo me sono positive. Quello che ti dicevo prima, un confronto diretto con le persone, col pubblico, ma un confronto reale, nel senso che non c'è nessun problema da parte, lo vedi quando suoni in un locale, vedi quando suoni una canzone se la gente è distratta, se beve, chiacchiera, vuol dire che non stai arrivando con quella canzone lì. Poi magari con un'altra invece li catturi, capisci dagli sguardi tante cose. Questa è una cosa insomma che è impagabile, insomma è un vantaggio questo per quelli come me, immagino, no? E poi appunto un altro vantaggio è quello appunto del confronto con altri musicisti italiani e stranieri. Italiani soprattutto, diciamo, gente che come me sta cercando di lottare per avere il proprio spazio, per farsi sentire. E quindi assolutamente questa è una cosa bella ed è un confronto. Io ogni tanto sento dei cantautori bravissimi, parlavamo prima degli amici appunto, ma anche altri nomi, per esempio Stefano Barotti, un ragazzo toscano, musicista, un cantautore bravissimo secondo me, ed è bello confrontarsi, perché finché uno rimane in casa propria pensa sempre di essere chissà chi, no? Più bravo di tutti. Invece in realtà poi esci e vedi che sotto casa c'è gente che non ha avuto magari la fortuna che merita e che ha scritto delle cose fantastiche. E quindi questo, diciamo, la gavetta ti dà questo vantaggio, la gavetta, insomma, il farsi le ossa, che poi è qualcosa che non deve essere una cosa negativa, secondo me è qualcosa che serve, insomma. Il calciatore deve allenarsi prima di andare in campo, no? Perché sennò va in campo e fa schifo, non corre. Esatto. In campo magari ci arriva in qualche maniera, se c'è l'allenatore amico, ma poi dopo non corre e il pubblico lo fischia. Esattamente. Una cosa volevo chiederti, abbiamo fatto questa domanda anche ad altri gruppi, è difficile proporre pezzi tuoi nei locali? Ebbè sì. Quindi la situazione non cambia in Lombardia, non in Veneto. No, è la stessa cosa. È difficile, intanto sono pochi locali che... Diciamo che ci sono dei locali che hanno abituato il proprio pubblico a prestare attenzione a quello che si propone, per cui io so che magari nella mia zona, magari verso Milano oppure in Brianza, ci sono dei locali dove vado praticamente a scatola chiusa. So che lì faranno della buona musica, anche se non conosco chi suona. Allora vado predisposto ad ascoltare. Però è difficile, è un lavoro sicuramente che richiede tempo e per un locale anche denaro. E quindi mi rendo anche conto che sia difficile. Insomma, è questione proprio culturale, immagino, no? Se in altri paesi, ma non solo in America, ma anche in Irlanda, per esempio, no? C'è l'abitudine di magari uscire alle 7 di sera, infatti i concerti magari iniziano molto, molto prima che da noi, che magari iniziano alle 11, uscire, mangiarsi un panino, bere una birra, ascoltare quello che suona, che magari è uno sconosciuto. Qui questa cultura non c'è, vado a sentire quello che conosco. È difficile che qualcuno esca e vada alle 10 di sera a scatola chiusa in un locale a sentire Paolo Pieretto se non ho sentito prima le sue canzoni. E quindi è difficile anche per un locale proporre, è più facile puntare su una cover band magari. Esatto, quindi Ligabue e Vasco alla grande. Sì. la cosa sai, ironica, io prima parlavamo del Boss, io sono un grande fan del Boss assolutamente, ma ogni tanto penso, quando siamo in 80.000 in uno stadio, la cosa ironica è questa, dico, vabbè, quanti di noi su 80.000 conoscono Mellencamp? Io dico 2.000. Quanti di questi 2.000 conoscono anche Thomas Van Zandt? Io dico 1.000. 50, no? 50. Quanti di questi 50 conoscono Guy Clark? Capisci? Non c'è, magari c'è poco, cioè, mi piacerebbe magari vedere un po' di più la curiosità, capito, dell'andare a cercare. Mi piace quel cantante, andiamo a vedere un po' le radici, capisci? Questa curiosità magari un pochino manca culturalmente, ma è la nostra cultura. Prima parlavamo appunto dell'Italia non considera la musica la leggera cultura, mentre sì. I libri sì, è assurdo, perché se io faccio un disco, cioè, è tassato, ma se io scrivessi un libro, questo viene considerato cultura, è un controsenso, no? Però parlavo una volta con un ragazzo scozzese che è venuto qua in Italia a suonare e mi diceva, sì, è vero, perché parli di musica, ma se parli, per esempio lui studia cinematografia, dicevo, in Italia invece siete tutti latissimi. Vallo a dire ai nostri che si lamentano comunque, però per esempio dal loro punto di vista dice c'è una differenza culturale abissale tra il nostro cinema e il vostro cinema, oppure sulla moda, cioè per cui noi culturalmente sulla musica siamo così, ma magari su altre cose siamo all'avanguardia, quindi non è che voglio criticare la cultura italiana, diciamo che sfortunatamente per quello che faccio io in questo siamo un po' penalizzati, siamo così, quindi insomma. Che bisogna fare? Diamoci da fare. 23:39, quasi 40. Un altro pezzo, Paolo, a tuo piacimento, cosa? Sì, che ti suono... Con l'armonica? Non so, con l'armonica... Bueno, sì, dai, facciamo così. Ti suona una canzone che non è sul disco. Un premio per Rock Wave. Una canzone che... Vediamo, spero di ricordarmi tutte le parole, veramente. È una canzone che ho scritto guardando una... Perché si collega comunque al disco, perché guardavo le foto una foto della copertina e vedevo le suole dei miei stivali, no? E pensavo che quelle rappresentavano la strada che ho fatto. Dietro di me c'è la strada e la strada che farò. E allora su questo tema volevo scrivere... questa canzone per cui nessuno è clandestino, si chiama I miei stivali. E puoi trovarmi travestito da scheletro, regalare rose per la città, o girare sui trampolini in cerca di carità. A volte sono una semplice ipotesi, con la maschera di Pierrot, uno slavo che suona l'armonica sul metro. E puoi chiamarmi Vigliacco Zingaro, tanto sai che mi cambierà. Sono un fantasma con l'anima in clandestinità. I miei stivali dicono la strada che ho fatto, i miei occhi quella che farò. E puoi trovarmi seduto su un albero, come al tavolo di qualche bar, o sui gradini di una cattedrale di vanità. E qualche volta mi sento un po' comico, fra le giostre del Luna Park, in doppio petto con una pistola di plastica. E puoi chiamarmi sbandato, stupido, tanto sai che mi cambierà. Sono un fantasma con l'anima in clandestinità. I miei stivali dicono la strada che ho fatto, i miei occhi quella che farò. Semaforo, il diavolo che balla il can can, o la capra che suona il violino per Chagall. E puoi chiamarmi bastardo, stupido, tanto sai che mi cambierà. Sono un fantasma con l'anima in clandestinità. I miei stivali dicono la strada che ho fatto, i miei occhi quella che farò. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Possiamo citare il detto di Mick Jagger: it's only rock and roll but I like it. Ok. Assolutamente niente, un po' di meno che Jagger, grande Mick Jagger. Sì. quasi 70 anni ben portati. Eh sì, e poi lui è Keith Richards, che cadono dalle palme, non si fanno niente. Uno che cade dalle palme. Non doveva cercare qualcosa sulle palme. Cosa devi fare così? Ed è una cosa molto bella, l'hai ripetuta anche prima, però la allarghiamo. Sì. Se dovesse capitarmi di esplodere adesso, saprei come gestire la cosa. Sì, è vero, l'ho detto. Stavo pensando cosa ne avevo. È vero. 10 anni fa no, adesso sì. Sì, perché... Come gestiresti la cosa? No, nel senso che, insomma, credo che spesso, insomma, tante persone che sono arrivate al successo con facilità, magari, no? Ma non perché non lo meritassero, ma magari, sai, io per esempio sono stato vicino nel... appunto ho fatto Recanati nel 2002-2003 a Castrocaro. Hai toccato il successo. Sì, ma perché l'anno dopo sono stato anche vicino a arrivare, insomma, nel senso, a fare magari il salto, no? Se esatto. Vuoi. Anche Sanremo, Castrocaro, poi... Certo, sì, la strada è quella, no? Esatto. Però magari penso veramente a cosa ti ripeto, parlavamo prima della gavetta, insomma, sì, così. Gavetta, parte sempre dalla gavetta. Esatto, penso comunque a cosa mi sarei perso, la crescita che comunque mi sarei perso, che forse non avrei saputo affrontare, diciamo, l'eventuale notorietà che ci potrebbe essere adesso dopo un percorso di 10-12 anni, capisci? E quindi questo intendo dire, sono un po' più zavorrato, sono un po' più temprato, possiamo dire. Di sicuro sì, diciamo che certe stupidaggini in cui uno può incappare magari per inesperienza proprio... Oddio, la mano sul fuoco non la si può mai mettere, però diciamo che dovrei riuscire ad evitarmela, insomma, quindi... Questo è un altro dei vantaggi, nel senso che chi fa più fatica è più forte. È un po' come quando, insomma, ci sono i ragazzini che a 14 anni sono tutti belli, io avevo i brufoli, no? Quindi, però dopo, quando trovi la persona giusta, forse riesci ad apprezzare ancora di più l'amore che ti viene dato, no? È la stessa cosa, quando riesci ad ottenere quello che hai desiderato tanto e riesci a dargli il giusto valore. Sì, una cosa che, ritornando al discorso prima dei reality, il discorso che faceva anche Truppi, scorsa settimana l'abbiamo intervistato, lui diceva che la gente, non è il caso tuo, non fa più la gavetta. Chi vince il reality non fa gavetta. È messo là davanti da casa discografica, lo mette là. L'anno dopo, chi si ricorda di quel ragazzo che ha vinto il reality? Non si ricorda più nessuno. Diciamo che, sai che, il fatto è questo, se il tuo... diciamo il tuo curriculum, il tuo background, insomma, è solo quello. Esatto. Una volta che da lì, l'anno dopo ne viene fuori un altro. Esatto. E quindi tu capisci. Una serie di... Poi viene viene messo da parte quello là e ne viene fuori, esatto, un altro. Esatto, e ne viene fuori un altro. Quindi più che altro è brutto quando poi le luci si spengono, il telefono non squilla. Esatto. E cosa fai? È difficile passare dai palazzetti dello sport pieni a suonare in un locale davanti a 20 persone che magari non si ricordano di te, anzi chi si ricorda di te ti ricorda come quello del reality. Esatto. e ti odia. E quindi è difficile. Esatto. Invece magari, appunto, io auguro, veramente, guarda, che quando parlavo prima dei reality, io auguro ogni bene veramente ai ragazzi che ci saranno, certo, e gli auguro di fare una lunga strada, un lungo percorso e soprattutto di scrivere belle canzoni, di non farsele scrivere, ma di scriverle loro. Di scrivere belle canzoni. Perché ne abbiamo bisogno tutti, insomma, ma veramente. Una volta dicevo, se sentissi in giro le canzoni, ci fosse qualcuno che dicesse le cose che io voglio dire, insomma, non avrei bisogno di dirle io. Invece nessuno dice quello che io provo, no? E vorrei sentirmi rappresentato, mi eviterebbe un problema, forse sarei stato più felice, magari mi sarei laureato, magari avrei una posizione migliore. Invece siamo qua a lottare, no? Esatto, siamo qua a lottare. Ma è una bella lotta, c'è molta adrenalina nella tua lotta musicalmente, sì, parlando. È bello per quello. Ma assolutamente sì, ma è quello che... Insomma, non credo che Leonardo da Vinci sapeva fare bene nella vita diverse cose. Ognuno di noi credo ne sa fare bene una se va bene. Insomma, se il mio modo di esprimermi è attraverso le canzoni, cioè quello è il mio. Poi dopo per vivere si fa di tutto, perché dobbiamo guardare nella realtà e fare tutto, essere pronti a far tutto. Ci sono cose molto più importanti come costruire una famiglia, come, certo, insomma, tante altre cose. Certamente. Però se questo è quello che, per cui io alla fine sono nato, quello è scrivere canzoni, insomma, devo cercare di fare. Sei fortunato a vivere scrivendo canzoni, è una cosa molto positiva. E come no? Decisamente. E come no? 23:48 quasi, diretta a rockway.altervista.org. Possiamo vedere Paolo e la sua musica e sentire la sua musica in diretta, chiaramente, a Rockwave. Un altro pezzo, Paolo, usi l'armonica alla Bennato, prendiamo. Praticamente. Sì, guardate che mi tolgo la cuffia così in diretta e ho una canzone sentita, Le nostri piccoli passi. Perfetto. Ecco, saltata l'armonica. È saltato la vita dell'armonica. Prendiamo tempo e parliamo di nostri piccoli passi. È una canzone. Beh, questa per esempio parla proprio del mistero del musicista alla fine, perché io l'ho scritta pensando ai musicisti, perché poi appunto quello di fare questo disco era il mio sogno, era quello che io volevo fare, no? Ma non era quello che magari, non era il sogno dei miei musicisti, no? Però loro mi hanno dato tutto e io ho scritto questa canzone proprio parlando, c'è una frase che dice che il vibrare di due corde di chitarra simultaneo è un accordo, siamo noi, siamo dita in seguire una scala per salire sulle stelle. E l'ho scritto proprio pensando ai musicisti che mi hanno dato tutto e che a cui spero di portare fortuna. Certamente. Anche l'armonica se speriamo, messa a posto. Esatto. Cioè, si è messa a posto. Devo aver detto un mare di stupidaggini, ma stavo sistemando l'armonica. Per cui... È tutto dal vivo. Come dicevo prima, Leonardo faceva più cose insieme bene, io ne so fare una, se parlo non riesco a sistemare l'armonica. Quanto distano le stelle più vicine dalle scarpe che indosso, non lo so. Certamente molto più della somma dei passi che ogni uomo in una vita muoverà. Quanto distano le stelle più lontane dai pensieri nella testa, son già qui. E allora tanto vale socchiudere gli occhi poi sognare. Non ci resta che questo ormai, lo sai. Oh, oh. Che strada mai faranno, che tracce lasceranno i nostri piccoli passi. Il vibrare di due corde di chitarra simultaneo è un accordo e siamo noi. Siamo dita di inseguire quella scala per salire sulle stelle, per poter guardare giù. Oh, oh. Che strada mai faranno, che tracce lasceranno i nostri piccoli passi. Possa l'amore passarci dentro e non soltanto girarci intorno, e questo tempo guardarci dentro e non soltanto danzarci intorno, e questa vita brillarci dentro e non soltanto bruciarci intorno, e questo sogno quando il sole un'altra notte cederà e chinerà la testa ancora un po'. Chiudi in un pugno il tuo dolore, prova a dargli un nome, poi gettalo nel vento e fallo urlare. Oh, oh. Ma che strada mai faranno, che tracce lasceranno i nostri piccoli passi. No, che strada mai faranno e che tracce lasceranno? Che strada mai faranno i nostri piccoli passi? I nostri piccoli passi, che tracce lasceranno? E che strada mai faranno i nostri piccoli passi, i nostri piccoli passi. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. L'onda Ok, ci siamo. Era caduta l'armonica? Non era caduta l'armonica? I tuoi occhiali, cosa era caduto? L'armonica. L'armonica. Cose che capitano. Sono cose che tutto dal vivo, assolutamente tutto. Ti vedono, li stanno vedendo. E la preparazione a un concerto si deve preparare. Se cade l'armonica, cade l'armonica. Non c'è nessun problema. Assolutamente. E leggendo fra le note della presentazione, abbiamo parlato dei festival. Che differenza c'è tra il festival di Castrocaro, il festival di Recanati e la casa Perrino, il festival che hai vinto con singolo Il Bambino Disobbediente? Come atmosfera? Come atmosfera? Ma diciamo che Recanati sicuramente forse è stata, secondo me, la cosa più importante che hai fatto. Però ti ripeto, l'ho vissuta con la, da un lato è andata bene perché l'ho vissuta con la leggerezza di un 23 anni che non si rende conto di quello che sta facendo. Esattamente. E quindi è stata, ho un bellissimo ricordo, una bellissima esperienza appunto con i musicisti di cui ti parlavo prima. È stato proprio bello, e c'era la sensazione comunque di essere un ambiente estremamente professionale. Certo. Castrocaro era... Abbiamo parlato di Castrocaro, tu hai già Castrocaro, detto... Castrocaro è una trasmissione televisiva, diciamo, quindi l'esperienza di una trasmissione televisiva. I tre minuti perfetti, 3-4 minuti per canzone, sì. Che non era neanche la tua, era una canzone. No, esatto, una cosa così, diciamo. Esattamente. E invece il festival di Una Casa per Rino è stato forse la cosa più bella. Intanto tra i, diciamo, il concorso era per i cantautori, pensa, io ho vinto il premio per il miglior testo con, certo, questa canzone. Il premio generale l'ha vinto Simone Cristicchi, con cui appunto io insieme agli altri finalisti abbiamo passato praticamente diversi giorni assieme in questo villaggio in Calabria, a Crotone, dove, certo, e avevamo aperto i concerti e poi degli ospiti, per cui ho aperto il concerto di Tiro Mancino, per esempio, De Marlene Kunz, quindi c'erano quell'anno i La Cruz, gli Avion Travel, quindi insomma c'era un festival molto, Claudio Lolli, un festival molto ricco, molto, cioè, era molto molto bello. Pensa, quando io fui premiato, due minuti dopo Gino Strada, premiarono Gino Strada e poi sei arrivato. Pensa, lì mi rendevo conto invece dell'imbarazzo di questa cosa, ma andò così. E quindi di quello ho proprio un ricordo bellissimo, una bella esperienza, dei giorni molto belli. E appunto era vivo anche il ricordo di Rino Gaetano, cioè, questo grande cantautore. Di questo grande ritorno di Rino Gaetano, sotto tanti motivi, sotto tante facce. Come sempre poi diventa una cosa anche, diciamo, commerciale, da un certo punto di vista, sì. Quando senti la canzone che diventa titoli di film, diventa colonna sonora di spot pubblicitari, campagne elettorali di tutti i colori, diciamo, si inflaziona inevitabilmente, non è colpa sua ovviamente. No, assolutamente no. Rimane comunque la grandezza. Diciamo che la cosa positiva è che è stato portato alla luce un personaggio come Rino Gaetano, che adesso magari molti conoscono, molti che senza magari quel remix del DJ Molella magari non avrebbero, esatto, non sarebbe tornato fuori. È vero, non avrebbero conosciuto, chiaramente. E quindi, cioè, da questo punto di vista è una cosa buona, cosa, cioè, più persone ci sono che conoscono cantautori come lui, è meglio per tutti, credo. Certo, certamente. C'è poi la speranza che da lì poi siano sempre dei semi che vai a spargere, da lì germoglino e vengano fuori dei nuove canzoni belle come quelle di Rino Gaetano, per esempio. Certamente, benissimo, abbiamo quasi finito, adesso sono 23:57. Io proporrei, se vuoi, se sei, sì, d'accordo, due pezzi di fila, uno dietro l'altro. Ah, okay. Ci salutiamo prima e poi suoni due pezzi di fila per concludere questa bellissima cavalcata nella tua musica. Ricordiamo allora Paolo Pieretto, artigiano di parole. Il tuo disco si può trovare ordinandolo attraverso il tuo sito, Facebook, oppure... Sì. Ordinando nei negozi che si trova praticamente. Sì, oppure nei negozi di distribuzione Venus, sì, sì, lì si può assolutamente trovare, insomma, dovrebbe arrivare in poco tempo. Allora, grazie a Paolo Pieretto. La prossima settimana avremo un gruppo from Lugano, dalla Svizzera, direttamente, una cosa molto interessante. Vengono a suonare mercoledì prossimo. Cosa ci proponi questi ultimi due pezzi finali? Vi propongo allora un'altra canzone nuova che si chiama Ancora Desidero. E poi vi suonerò Artigiano di Parole per concludere la serata, che è la canzone che dà il titolo al mio disco e che chiude anche il mio disco. Esatto. E che chiude il mio disco. Quindi ti ringrazio veramente di cuore per questa serata, ringrazio tutti gli amici della radio e spero di rincontrarvi presto. Certamente, grazie a Michele Tosone regia e buonanotte a tutti. Ho visto le mie mani contro il muro e un gemito di vento accarezzarle, e petali di viole ricoprire. L'anello che non tiene la catena, da lì puoi vedere in faccia il mare, e voli di gabbiani ammaestrati, le impronte nella sabbia di mio padre. Mi dicono che è il tempo di cantare, nel bianco del sogno, nel nero del sonno, tra bassi sbatter d'ali e odore di cicale, con gli occhi spalancati contro il sole, io ancora desidero. E quello che ho perduto non è mio, tutto quel perduto sono io, che per cercare di riprendere quello che non torna perso sé. Amore, non ho fiato per cantare, e la voce mia non lo sa fare, ma per questo le ho insegnato a vibrare, come i sensi alle carezze dell'amore. Nel bianco del sogno, nel nero del sonno, tra bassi sbatter d'ali e odore di cicale, con gli occhi spalancati contro il sole, io ancora desidero, io ancora desidero. E adesso vi suono invece Artigiano di parole, per cui ho bisogno di fissare l'armonica. Se sapessero vedere gli altri ciò che vedo io, in mezzo ai chiariscuri delle vie, universi misteriosi che si appoggiano tra noi, ma come il vento afferrare tu non puoi, ma puoi sentirlo sulla faccia, sentirlo correre lungo le braccia e farne poesia. Quanto male dentro, quante parole che non so dire guardandoti negli occhi, allora scrivo e con un filo leggo parole e musica fino a vestire i miei silenzi con un canto del mio pianto. Ed ogni volta che vorrò, sulle mie labbra metterò un po' di te. E la vita mia si snoda in un filo impercettibile. Agli estremi, in equilibrio stiamo noi. Incontrarsi lì nel mezzo, senza mai cadere giù, è il prodigio misterioso dell'amore. Ah, misero artigiano di parole, ogni dolore è già la scusa per una nuova canzone. Quanto male dentro, oh, quante parole che non so dire guardandoti negli occhi, allora scrivo e con un filo leggo parole e musica fino a vestire i miei silenzi con un canto del mio pianto. Ed ogni volta che vorrò, sulle mie labbra metterò un po' di te. Radio Rock Wave, l'onda del rock.